cielo. Nei tuoi occhi sfioro i colori della mia anima. Vibrano sfumature ancora sconosciute che raccontano la vita. Nella profondità mi tuffo e tocco lembi di eternità. Occhi che penetrano i miei pensieri quando ancor muovono passi incerti e nel mio cercare tracciano strade nuove. Conducono il cuore mio a dimorare sulla vetta più alta. Fra le tue mani l'universo è la mia casa. Ora son calici traboccanti di tenerezza infinita, ora limpide sorgenti di forza silenziosa. Mani benedette narrano ogni dì la storia di un amore. Benedicono quanto s'adopra impreziosire quel sì. Nel silenzio innalzano inni che danno voce a ciò che non so dire. I tuoi occhi volano in cielo, le tue mani accarezzano la terra. Ora terra e cielo sono in questa casa.